Europa 24. Dure le parole di questa mattina del premier Matteo Renzi. L'UE che si gira dall'altra parte sui migranti pensa di venirci a spiegare le tasse. C'è qualcuno a Bruxelles che pensa di mettersi a fare l'elenco delle tasse da tagliare. Spero sia stato il caldo, le tasse da tagliare le decidiamo noi, non Bruxelles. Immediata la reazione della portavoce della Commissione agli affari economici Annika Breidhart. La legge di stabilità sarà valutata in autunno, la valutazione sarà basata sui fatti, su quello che ci sarà e sulle previsioni economiche della Commissione di novembre. A rispondere invece in maniera particolare alle accuse di Renzi sulla politica europea sull'immigrazione ha pensato Margaritis Schinas, portavoce della Commissione europea. A chi attacca e critica Bruxelles per ciò che vuole fare sull'immigrazione consiglio di andarsi a riguardare l'agenda presentata a maggio. C'è scritto tutto, siamo decisi ad andare avanti con coraggio e velocità. Il riferimento della Schinas è anche al meccanismo permanente di ricollocamento per situazioni di crisi. Permesso di soggiorno troppo caro in Italia, secondo la Corte europea, il problema immigrazione del vecchio continente va sempre più complicandosi in attesa di una risposta comune nel prossimo vertice del 14 settembre. Di bocciatura in bocciatura, di emergenza in emergenza, il problema dell'immigrazione si complica per l'Italia e per l'Europa. Dopo la sentenza della Corte europea per i diritti dell'uomo che ha condannato il nostro paese per il trattenimento e l'espulsione di 3 cittadini tunisini nel 2011, la Corte europea boccia la legge italiana che impone a cittadini extracomunitari richiedenti il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno di pagare un contributo tra gli 80 e i 200 euro. Secondo i giudici, il costo, anche se gli stati hanno il diritto di imporre il pagamento di un contributo il cui importo è discrezionale, è sproporzionato, può ostacolare i diritti. Dice no a interventi singoli il vicepresidente del Parlamento europeo Roberta Angelilli. Basta censure, ci vuole un approccio concreto in tempi immediati, se ne parla da 20 anni, ci sono fondi per gli aiuti allo sviluppo, subordiniamoli a politiche di contrasto all'immigrazione clandestina e di contrasto al terrorismo, un approccio europeo, non un approccio bilaterale paesi membri e paesi del Nord Africa, un approccio europeo. Ci troviamo di fronte ad una bomba ad orologeria. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In arrivo nuove sanzioni europee contro la Russia. Diplomatici dei 28 paesi dell'Unione dovrebbero rinnovare oggi qui a Bruxelles per altri 6 mesi le sanzioni contro personalità russe e ucraine. Queste persone sono ritenute in parte responsabili della guerra civile che sta scuotendo l'Ucraina da circa 2 anni. Le personalità colpite sono 150, tra queste anche il vice primo ministro russo Dmitry Kozak. Le sanzioni riguardano anche 37 società e organizzazioni coinvolte nella guerra civile o nell'annessione della Crimea da parte della Russia. L'atteso rinnovo delle misure fino al marzo del 2016 è il tentativo europeo di tenere sotto pressione Mosca e imporre un cessate il fuoco durevole nella parte orientale dell'Ucraina. D'altro canto, già in giugno i 28 avevano deciso di rinnovare fino a gennaio le sanzioni economiche contro la Russia. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed ora parliamo di cinema, perché ci sono anche 5 film finanziati dall'Unione Europea in concorso alla mostra del cinema di Venezia che prende il via oggi. L'Unione Europea dà una mano a chi lavora nell'industria del cinema e dell'audiovisivo e lo fa con il programma Media di Europa Creativa, che per la 72esima mostra internazionale del film di Venezia ha finanziato 5 opere in concorso per un totale di 260.000 euro. Marguerite di Xavier Giannoli è la storia di una cantante ricchissima e incredibilmente stonata. Ci sono poi A Bigger Splash e L'Hermine, L'Ermellino, il primo di Luca Guadagnino ambientato a Pantelleria e il secondo di Christian Vincent. Infine, 2 film che fanno parte della sezione Orizzonti riservata agli autori emergenti. Krigen, del regista danese Tobias Lindholm, è la storia di un comandante in missione in Afghanistan che dovrà affrontare un processo per crimini di guerra. Taj Mahal, del francese Nicolas Saada, racconta l'attentato terroristico del 2008 al famoso hotel di Mumbai dal punto di vista di una ragazzina intrappolata in una stanza. Il programma media, a cui partecipano 36 paesi non solo europei, ha in dotazione 824 milioni di euro per il periodo 2014-2020 per finanziare progetti europei, cinematografici e televisivi e aiutarli a farsi strada oltre i confini nazionali. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.